voglio. Parto e poi rimango qui al cecchino, mettere le scarpe sopra il tuo divano, dire al vero amore che non era vero. Voglio avere voglia come un primitivo, che tra vivo e muoio. Voglio. Sopra il cornicione, dare degli ordini all'imperatore, fare il giro del pianeta proprio come con un corpo la BMX, essere invitato pure fuori posto, premere con l'indice il pulsante rosso. Voglio avere voglia come un primitivo, che tra luce e buio, tra dormire e sveglio, che tra vivo e muoio. Voglio. Alta allora che voglio.